piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Perché non vuoi bene a tua madre? Perché prima ero a Balia e quando hanno avuto un po' di soldi mi hanno messo dalla nonna. Ma la nonna era vecchia e così non poteva più tenermi. Allora mi hanno preso in casa, ma sa, avevo già 8 anni. E ho capito che la mamma non mi voleva molto bene, mi sgridava sempre per niente, per delle piccole sciocchezze. E una volta, sì insomma, una volta che stavano litigando, ho sentito che io ero nato quando mia madre non si era ancora, quando era ancora signorina, insomma. E poi anche con la nonna ha litigato una volta. E allora ho sentito che aveva voluto abortire e che se ero nato lo doveva mia nonna. Beh, una bella botta. Il piccolo Antoine, il protagonista dei 400 colpi di Truffaut, abbandona la sua scapestrata fanciullezza quando ha questa rivelazione. Un figlio concepito fuori dal matrimonio, ma ancora di più, la madre voleva abortirlo, la nonna ha insistito, tiello, pensate a questo ragazzino che rientro immediato nella realtà ha avuto quando ha avuto questa notizia, poi magari ha visto anche la mamma che si spomicicchiava un altro, ha avuto vari problemi, vari traumi, per cui alla fine ha capito che la fanciullezza è uno stato transeunte della vita e che prima o poi, meglio prima che poi, per la propria salute mentale, ci si rende conto che la realtà è tutt'altro che la bella favola che ci raccontano quando siamo bambini. Beh, anch'io sono stato concepito fuori dal matrimonio. Adesso dirò una cosa, non è che mi ha dato nessun trauma, che mi frega. Mi sono accorto che le foto di quando ero piccolo, degli anni 50, cambiavano la data, perché c'era qualcosa che non ridiceva con i mesi. Quindi c'è una foto mia che praticamente era un periodo che non ero ancora nato, ma già ero nato in quella foto. Strano, poi l'hanno corretta. L'ho ritrovato in un vecchio cassettone di foto. L'ho messa nel libro infame, un libro in cui parla dell'infamità della mia vita. Ci ho messo questa foto predittiva in cui ero nato quando ancora non ero nato. Detto questo, oggi mi piacerebbe scandagliare un po' questo momento, questa linea di discrimine con voi. Prendiamoci un momento di relax. Ieri abbiamo parlato di agromafia, oggi possiamo anche parlare un po' di noi stessi. Quando ci rendiamo conto in realtà che la realtà non è quella che ci raccontano, quando arriva il momento della disillusione e quando c'è la perdita dell'innocenza. Guardate che la perdita dell'innocenza è un concetto piuttosto lato, in termini tradizional conservator beghino parrocchiale, la perdita dell'innocenza per una fanciulla è il momento in cui viene deflorata, o anche il primo bacio. Questa è una visione ottocentesca, credo ci sia più retaggio di questa perdita dell'innocenza, o ha perso la sua innocenza. No, la perdita dell'innocenza è in realtà quando ci si accorge che le favole sono favole, la realtà è la realtà. Ci se ne può accorgere nella fase dolorosa e cruenta della propria adolescenza, quando ci si comincia un po' a rifare i conti con il mondo, che non è proprio quello che noi pensavamo, e si mette il naso fuori. Ma parlo con l'esperienza di una generazione che ormai è già bella che putrefatta, perché oggi l'innocenza si perde attraverso il prolungamento che ognuno ha delle proprie possibilità sensoriali, quindi anche della propria esperienza. Io penso che oggi si perda molto prima l'innocenza. Oggi la cruda realtà si acquisisce in tempi molto più veloci, perché non c'è più il cerchio protettivo della mamma, del papà, dei nonni, delle nonne, delle zie. Antoine ha scoperto quello dovrebbe essere il trauma della sua vita, poi che trauma è, sti cavoli, la mamma ti vuole abortire, e vabbè sei vivo, ringrazia Dio, fine, non ci pensa più, sarà un problema della mamma, non è un problema tuo. Su questo naturalmente sì, è stato creato un capolavoro di film angosciosissimo sulla disillusione. Ma l'innocenza si può anche perdere da adulti. Chi si illude che l'amore sia eterno, che una persona ti guarda degli occhi languidi e ti dice ti amerò per sempre, come appunto diceva il poeta, e come vederlo scritto sull'acqua, sul vento, è come scritto nella polvere, nulla è più leggero che una promessa d'amore. Oppure nel campo del lavoro, quando ci si rende conto che il migliore dei tuoi colleghi ti ha fatto le scarpe o sta lavorando per farti le scarpe, o quello che era quel capo affabile che sembrava di averti adottato come un padre, in realtà ti usa come una sorta di schiavo nella sua testa, sei qualcosa di sostituibile, e gioca con la fiducia e l'ammirazione che hai per lui per usarti nella peggiore delle maniere per te, nella migliore per lui. Ecco, questi sono sintomi della perdita dell'innocenza. Voi ne avrete altri. Fatevi un attimo un esame di coscienza e dite: quando ho perso la mia innocenza, quando mi sono accorto che in realtà esiste un muro in cui si sbatte la faccia prima o poi? Beh, vi do 30 secondi per esprimerlo, e se lo fate questa mattina mi fate un bel regalo. Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800240024. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. Time. 800240024. Oggi ve l'ho fatta difficile, oggi vi metto veramente a cimento. Io stesso probabilmente ho questa folle intrepidezza di buttare argomenti così, aspettare che qualcuno mi chiami e riempire il vuoto radiofonico a rischio e pericolo della mia sussistenza e permanenza alla radio. Ma penso sia un bel argomento, anche perché l'assicella dell'innocenza si cambia continuamente, è mutevole a seconda delle epoche. Ci sono epoche in cui si resta innocenti, si restava innocenti perlomeno per molto tempo, la disillusione arrivava tardi, e questo è condizionato dallo status sociale, dal livello di educazione e di cultura della propria famiglia, da chi si frequenta, dalle occasioni, ma anche dalle circostanze storiche e temporali. Un bambino che nasce in tempo di guerra, mi raccontano i miei genitori sempre, dovevi sapere cos'è la guerra, i bombardamenti, la fame, la borsa nera, queste cose terribili che mi raccontavano. Loro l'innocenza l'hanno persa da piccoli, perché da piccoli si perde l'innocenza quando si vede il vicino di casa che ti manda la gente a casa per portarti via i genitori, quando si vede la fame, la gente combattere strada per strada, si vede perdere comunque il senso di compattezza che dà sicurezza a tutti i bambini. In quel caso si perde velocemente l'innocenza. C'è chi la perde molto tardi, c'è chi rimane sempre innocente. Persone fortunate che vivono perennemente confidenti negli altri, nel proprio prossimo, non c'è nessuna lezione della vita che faccia perdere loro questa sorta di sconsiderata e folle fiducia nel mondo. E ci chiediamo molte volte se questo sia dovuto a uno stato patologico, a una non capacità di gestire il rapporto con gli altri, di interpretare i segni che gli altri ci danno, della loro sincerità e insincerità, o è semplicemente un atteggiamento positivo e ottimistico verso la vita. Ecco, io mi trovo molte volte in questa impossibilità di capire quello che gli altri mi dicono o mi fanno capire di loro, o quali sono, diciamo, le regole e le convenzioni sociali che determinano il comportamento delle persone. Quindi per me è molto difficile perdere l'innocenza. 800240024. Cosa fai? Cosa cerchi? Prendo le mie monete. Perché le hai nascoste lì? Sì, ieri sera. Perché mi seguivano i ladri, gli assassini. Chissà come saranno rimasti male gli assassini! Mi hanno anche impiccato, ma la fata mi ha fatto diventare burattino, così mi ha salvato. Senti, è lontano il campo dei miracoli? No, è qui vicino, a pochi passi. Ma, senti, perché non ci facciamo una scappata, eh? Esiste davvero il campo dei miracoli? Cioè, te che Pinocchio è fortunato ad incontrare il gatto e la volpe, che sono due perfidi ma importanti, necessari maestri di perdita dell'innocenza. Ecco, io sono grato alle persone che via via nella vita mi hanno fatto perdere gradualmente alcuni livelli di innocenza. Gli amici che mi hanno tradito, i colleghi che mi hanno tradito, le persone che mi hanno illuso, sono stati i miei maestri di perdita graduale di alcuni livelli di innocenza. Perché l'innocenza è per compartimenti, non c'è l'innocenza in generale. Uno mantiene l'innocenza nel campo dei sentimenti amorosi, nel campo delle relazioni personali, nel campo delle relazioni professionali, nel campo, nella capacità di interpretare gli altri, via via se ne perdono. E come il gatto e la volpe hanno insegnato a Pinocchio che gli alberi di monete d'oro non nascono piantando monete sottoterra, probabilmente dobbiamo essere grati a chi ci ha fatto perdere le nostre innocenze. Riccardo, buongiorno, sei il primo, grazie. Buongiorno. Sei pronto? Hai 30 secondi, vediamo se hai capito bene o se riesci a interpretare un lembo di innocenza che hai perso. Vai. Volevo dire che è vero che l'innocenza si perde gradualmente. Io una bella fetta della mia innocenza l'ho persa tutta in un botto. Ho avuto una relazione lunga 3 anni con una persona molto difficile, con tanti problemi. Io venivo da un contesto con meno problemi, mi sono fidato e diciamo ho provato ad aiutarla, ma è finita molto male, tante cose. Due tradimenti, anche uno sfruttamento un po' economico con dei furti e calunnie abbastanza pesanti, molto pesanti, quindi diciamo che poi è finita con un gran botto e ci è voluto un po' di tempo per riprendermi, ma alla fine è stato meglio così. Allora, cominciamo a vedere, tu hai lambito subito il primo territorio, forse il più perigliososo, perché quello ci fa star più male alla fine, è l'innocenza persa nella confidenza amorosa. Tu hai una persona che si è presentata col suo bagaglio di rotture di coglioni, che naturalmente a noi appassionano perché ci sentiamo in grado di poter aiutare gli altri, quindi una sorta di doubt death. Io ti aiuto, ti faccio il padre protettore, il conduttore, il maestro di vita, tu in cambio mi prometti fedeltà, ma in realtà non è stato così. No, per niente. Lo so. Che hai capito da questa storia? Che bisogna... Innanzitutto bisogna fidarsi più del proprio istinto che degli altri. Ma metti caso che come me non c'è nessun istinto, io mi fido sempre di tutti a priori e sono sempre diffidente delle persone cui dovrei fidarmi. No, come è si pessimo. Fa? Lo pessimo. So, a me capita così. Diciamo che la cosa che ho imparato, diciamo che quando si sta tanto tempo in una relazione di questo genere... Beh, tre anni, dai, ti è andata anche bene. Infatti. C'è chi lo scopre dopo 30. Si smette di fidarsi di se stessi e si ascolta solo gli altri. Ecco, tu ce l'avevi qualche segnale comunque? Cioè la tua innocenza faceva trapelare comunque qualche segnale di pericolo rispetto a questa persona? Diciamo, nel senso, se avevo qualche... Sì, diceva questa mi sta fottendo, oppure eri convinto sì, che... Sì, però... Non gli davi ascolto. Si soffocano, no? Certo. Si soffocano quelle voci. E quindi ci sono stati due tradimenti e un po' di soldi che ti ha portato via, ecco. Sì, alcuni li ho recuperati, altri no, ma le calunnie anche quelle forse sono state la cosa peggiore. Vabbè, sai, chi tradisce deve inventare cazzate, sennò come fa a tradire? Va bene. Va bene. Comunque, diciamo la perdita dell'innocenza ti ha recuperato una parte di capacità di vivere in maniera adulta, probabilmente anche alcuni rapporti sentimentali, poi ci si ricasca sempre. Ne troverai altri 10 alla stessa maniera, perché noi andiamo sempre a sbattere la testa contro la stessa muraglia, questo fattene una ragione. Paola, buongiorno. Sì, buongiorno. Sei pronta a raccontare la perdita della tua innocenza? Vai. Prontissima. Allora, io da piccolina avevo una mamma e un papà che si volevano molto bene, erano felici, andavano a ballare, si divertivano, non mi facevano mancare nulla, ma mio papà però non dormiva a casa con noi. Io lo vedevo la sera, poi andava via, ma non mi sono mai chiesta il perché. Un giorno, a 13 anni, scopriamo che mio papà era malato e dopo qualche giorno lui mi dice: ti presento tua sorella. E al che mi presenta questa donna che aveva quasi l'età di mia madre, e da lì scopro che mio padre aveva un'altra famiglia, che poi era la sua famiglia ufficiale, una moglie, una figlia, e in parallelo aveva quest'altra famiglia che eravamo io e la mia mamma. Cioè tua mamma era l'amante di un uomo sposato? Mia mamma era l'amante di un uomo sposato. Quindi lei sapeva che la sera se ne andava a dormire fuori, tua madre lo sapeva? Sì. Quindi era... diciamo la prima... Tutti i parenti lo sapevano, tutti. Tua madre è la prima, diciamo, che ha tradito la tua innocenza. Quest'uomo alla fine faceva come tante persone, manteneva un amante con una figlia in maniera clandestina, se ne occupava e la sera andava a dormire dalla moglie, così faceva. E quando com'è fatto a scoprirlo? Ma io in realtà probabilmente l'ho sempre saputo, però ero innocente, quindi... Non volevo vederlo, quindi prendevo come dato di fatto che la mia era una famiglia un po' diversa, che il mio papà era via... Ma quando usciva la sera che diceva cenavate, poi diceva ciao papà esce, la mamma che diceva? Ciao, ci vediamo domani. Ma dove andava a dormire? Gli hai chiesto papà, ma dove vai a dormire? No, io non chiedevo assolutamente niente, anche perché poi mio padre era una persona molto, diciamo, austera, era anche piuttosto severo, era una di quelle persone... Pensa un po' se era frivolo. Cioè, fammi capire, anche severo e austero. Cioè. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro ha avuto un diabete a livelli... Cioè, lui cenava e poi doveva andare a cenare a casa della moglie. Pronta la cena, cara, l'ha già mangiato da voi. Eh sì, così era. Non lo so, non me lo sono mai chiesto. Però insomma non era una bellissima persona, che poi ho scoperto all'età di 14 anni quando è mancato. E la mamma che ti ha detto, 14 anni sono tanti, la mamma che ti ha detto di questa storia quando tu l'hai scoperto? Perché non sei giustificata, niente. Niente, assolutamente niente. Ma non se ne parla nelle famiglie, guarda, non è il primo caso che sento dire di fratelli o sorelle che escono fuori all'improvviso dopo tanti anni. Le mamme sanno e tacciono e non lo dicono ai figli, sono sempre complici comunque dell'uomo. È vero. E poi è stata una liberazione per tutti quando è mancato in realtà. L'altra sorella che ti ha detto? L'altra sorella non mi ha mai detto cose particolari, era la sua sorellina, sembrava molto contenta di avere una sorellina, e mi coccolava, mi faceva regali, poi nel frattempo lei aveva avuto dei figli, due figli, quindi ero la zia. Sì, l'ultima cosa, mi interessa una cosa, ma tuo padre ti ha lasciato qualcosa? Sei nel suo essere ereditario? Sì, assolutamente. Mi ha lasciato una casa che poi ho venduto. Comunque, per comprare la cascina dei miei sogni. Almeno su quello ha fatto il suo dovere, almeno su sì, quello. Assolutamente. Alla fine. Io non giudico mai poi le situazioni sentimentali altrui. Ci fermiamo un istante, tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Oggi, 5 ottobre, ho traslocato in casa ad un amico del babbo. Che è? Il diario che la signora maestra ci fa tenere alla fine di ogni giornata. Brava, intelligente codesta maestrina. Lui dice di essere conte, ma invece sta in un seminterrato alla giapponese. Tutto di accio e umido, senza telefono, senza acqua calda, col cesso coi piedoni e un fornelletto dove la moglie ci ha cucinato una frittatina di due uova. Che abbiamo mangiato in tre, più un rinforzino, come lo chiama lui, di 9 olive di numero, mezzetto di stracchino e un quarto di vino sfuso. Tutto, vitto e alloggio, per 150.000 lire, che mi pare proprio una rapina, anche se lui, per fare il conte, chiama Castello un aggeggio di tre locali. Loculi. Di tre loculi, dove mi toccherà dormire assieme alla moglie, una donnetta secca e rifinita, come il suo nome, Alice, e la figlia Mela, che per fortuna non dà noia, perché è un'handicappata incapace di parlare e camminare alla sua età. Io dico che codesto conte o è un gran bugiardo o si è ridotto proprio come un disperato. 10 lode. Certe qua l'innocenza la perde il conte Mascetti, personaggio di Tognazzi in Amici miei, che forse viveva nell'illusione veramente di mantenere l'allure di una condizione nobiliare, viveva in una catapecchia, una stamberga, prende a pensione il figlio di un amico e ottiene in condizioni pessime, sempre con quella sorta di presunzione comunque di poterselo permettere. Tutte le volte che capita di andare a casa di nobili spiantati, c'è sempre questo senso che sotto il blasone non aspettano altro che li inviti a pranzo. Ricordo in un castello con una famiglia che mi invitò, cominciano ad essere le 2 di pomeriggio e in quella cucina non c'era niente. E feci il beau geste, andai a comprare pasta, pomodoro, gli feci la pasta e li vidi mangiare, leccare anche i piatti. Pensavo quanti avi illustri, quanti manieri, guerrieri, dame, battaglie e si condensavano in quel sughetto che avevo fatto comprandolo al supermercato. Parliamo oggi in 30 secondi della vostra perdita, della nostra perdita dell'innocenza. 800240024, il disinganno, sul senso del disinganno si è tutto articolato il significato filosofico della controriforma. Tutto il barocco è il disinganno, la vita è la scoperta amara e cruda del divario fra realtà e illusione, quindi il mondo è fatto di vanitas, quindi tanto vale suicidarsi, non so, qualcosa del genere, o stare lì a guardare sconsolato il mondo, ma io spero che non sia questo il sentimento che vi ispira. Camillo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, grazie per avermi chiamato. Allora, liberati di questa tua pesantissima ricordo della perdita dell'innocenza in 30 secondi. Sì, guarda, io sono stato collaboratore di un ministro da 28 a 31 anni. Durante quel periodo venivo, come dire, pressoché tutti i giorni salutato, in qualche caso anche omaggiato da direttori generali, personalità, eccetera. Poi, siccome cambiò governo e il ministro uscì dal governo, naturalmente io ritornai a fare il lavoro che facevo precedentemente. Quelle persone che avevo incontrato fino al giorno prima, no? E che quando mi vedevano, buongiorno dottore, come sta, come va, come è, eccetera, praticamente, no? Io rimasi perplesso perché mi incontravano e nemmeno mi salutavano, cioè giravano la testa dall'altra parte. Quello per me fu un disinganno, non immaginavo a quell'età, no? Che le persone potessero comportarsi in questa maniera, che poi è la realtà, come lei giustamente ha sottolineato. Però Camillo, no? Sei stato fortunato, tu l'hai scoperto a 28 anni, ho scoperto a 50 anni, quanto in realtà è leccaculaggio per lo status, per il grado, per la posizione di prestigio, si trasforma immediatamente in una sorta di dileggio, di indifferenza. Mi è stato anche spiegato perché, le persone vogliono avere comunque l'illusione di essere valutate per il loro valore, non perché sono gli addentellati di un potere più forte. Ti leccavano il culo perché sapevano che tu potevi dare a loro dei vantaggi. Una volta finito questo vantaggio ti hanno dimenticato, perché loro sono convinte di potersi meritare il vantaggio con i loro meriti. Quindi io l'ho capito tanto. Guardi, non immaginavo, meno male che me ne sono accorto in tempo. Beh, però è proficua come disillusione, perché adesso le altre occasioni che avrai della vita di essere importante, capirai che è tutto transeunte, certo, il consenso che hai intorno, quindi usalo come sentito. Meglio. Serve sempre. Raffaella, buongiorno, sei pronta? Buongiorno. Sei pronta? Sì. Già ridi, allora si vede che è una bella perdita di innocenza. Che qualcuno mi dica una volta tanto, viva Dio, mi sono perso l'innocenza, mi ha dato un sacco gusto. Dai Raffaella, 30 secondi. Allora, ho perso la mia innocenza quando ero in terza elementare, i miei compagni di classe mi hanno chiamata figlia di puttana perché, e anch'io sono nata fuori dal matrimonio, e l'uomo che per me è sempre stato mio padre, perché l'ho sempre visto accanto a mia mamma, era il papà di mia sorella, il papà genetico di mia sorella, ma non il mio. E comunque lui è e rimane l'unico padre che io abbia mai avuto. Questo è quello che mi è rimasto da questa perdita dell'innocenza. Ho scoperto che i legami affettivi sono molto più importanti dei cognomi. Andiamo al punto. Allora, terza elementare, dicevano figlia di puttana, che era un piccolo centro, immagino, abitavate, perché se tutti sapevano questa... Quindi tutti gli altri bambini, le altre mamme da brave, gli hanno detto, guarda, quella lì, la mamma di quella lì, l'ha avuta fuori dal matrimonio. Quindi in terza elementare già sapevano benissimo che i figli non li porta la cicogna, ma sono frutto di un atto sessuale. Quindi tua madre era bollata dalle altre mamme con questa sorta di... Era bollata in quel modo lì, esatto. Ma come hai fatto a risalire dal fatto, ti dico, figlia di puttana, che a me me l'hanno detto tutta una vita, e sono identico a mio padre, su questo almeno non ho dubbi. Ma... Perché io ho il cognome diverso. Io di cognome faccio Tomasini, che è il cognome del mio padre. Ah, perché allora funzionava così, ecco, allora funzionava così. Adesso, grazie a Dio, non c'è. Esatto, e invece mia sorella aveva il cognome del mio papà. Pensa quanto era discriminatoria, padre. Poi dicono che non ha senso cambiare le leggi, dico che è politicamente corretto. Pensa com'era discriminatorio portarsi questa cosa, che poi non è un'onta, cosa c'è di strano? Un figlio l'ha concepito con una persona, un'altra persona, in un gesto d'amore ampio, si è presa la madre, il figlio, e gli ha voluto bene come una figlia. E infatti io avevo un anno e mezzo, quindi ero proprio piccola, e avevo lui come papà. Vabbè, cioè, ma è... mio papà è lui. Era una brava persona, ma sì, l'altro papà probabilmente, per l'altro papà, ma è sicuramente al 100%. Guarda, io parto dall'idea che generare un figlio è una cosa che si può fare anche senza pensarci, per sbaglio o pensando altre cose, o si può fare con chiunque. Paio di maniche, è vero, cioè è una botta e via e nasce il figlio, e poi dopo in realtà tenerselo, mantenerselo, prenderne la responsabilità è tutta un'altra cosa, non vedo una grande differenza. Va bene Raffaella, è importante questo tuo risveglio. Gianluca, pronto? Ciao, omonimo e concittadino, buongiorno. dai e cocco, 30 secondi. Allora, velocemente, la mia perdita di innocenza è stata tra quelle che appartengono alla categoria, ma ha dato gusto perché è avvenuta in seconda elementare all'inizio degli anni 70 a Perugia, quindi un ambiente che tu conosci bene, molto perbenista. Un mio compagno di scuola, dopo un brusio, immaginati la scena, una classe con quattro file di banchi, parte dal fondo della classe e sollevando un paginone che era all'interno di questi giornaletti a fumetti sessuali, fa tutta la scala, la classe, e salta a pie pari sulla scattedra con la maestra liquida, mostrando alla classe questo paginone dove c'era un cunnilingus grande, così ricordo lo slurp ancora oggi. Sì, perché c'era l'onomatopea, bisogna dirlo, sono quei fumetti salaci degli anni 70 fino agli anni 70 c'erano, disegnati anche da grandi disegnatori in momenti, diciamo all'inizio della loro carriera, in cui c'era l'onomatopea, quindi il cunnilingus era slurp, poi c'era lo sdreng che era l'atto di sodomia, c'era il fic fic cul cul, c'era tutte queste cose qua. E perché fece questo gesto irriverente allo stesso tempo anarchico di portare diciamo, era il più sveglio della classe sicuramente, ma la cosa bella è stata che fu, diciamo, una perdita dell'innocenza simpatica, per modo di dire, perché poi tutti incominciammo a urlare, ovviamente non capendo neanche perché lo stavamo facendo. Ma tu hai capito che stava succedendo oppure no? Dopo diciamo una decina di minuti, perché poi la maestra è rimasta in una scena, guarda, da felice. Che scuola era, per curiosità, che scuola era? La Bertolli alla Madonna Alta. Ah, Madonna Alta, sì, va bene. E quindi nulla, niente, e pensa che anche a distanza di anni, fra i amici, quando ci ricordiamo, tutti ci ricordiamo. Beh, gesto epico, passerà la storia questo ragazzo. Assolutamente. Va bene, grazie Gianluca. Allora, ricordo, 800 24 00 24, quando avete perso la vostra innocenza. Avete 30 secondi per raccontare gradualmente quali sono le innocenze che si possono perdere. L'abbiamo già sentiti i vari livelli: l'innocenza dal punto di vista della pudicizia, l'innocenza dal punto di vista della compattezza nella tradizione del proprio nucleo familiare, l'innocenza nel rapporto con i colleghi di lavoro. A tra un istante. Melog. 800 24 00 24, in 30 secondi, quando avete perso la vostra innocenza nel più vasto possibile numero di accezioni. Aldino, buongiorno. Sì, buongiorno. Sei pronto? Sì, mi sente? Vai, 30 secondi. Perfetto, io credo di aver perso la mia innocenza il 5 ottobre del 2018, quando il mio ex capo mi ha fatto firmare uno strano documento che si è rivelato nelle settimane successive falso, che ora adesso è un documento importante in una causa di truffa, ecco. E questo, il mio capo, per me era la mia vita fondamentalmente, dal punto di vista professionale. 31 anni e 10 mesi di stima, dedizione e rispetto dissipati per quel documento a causa del figlio, ecco, questo è. Allora, Aldino, andiamo al punto, questo è importante perché è un settore che abbiamo toccato poco. L'avevo accennato all'inizio, ma è questo caso. Un capo che è anche un padre. Tu 31 anni hai lavorato con questa persona? 31 anni e 10 mesi. Cioè, hai 32 anni con lo stesso capo, quindi una fedeltà assoluta, più di un padre. Fedeltà assoluta, per questo capo ho lasciato passare tante opportunità di lavoro. Ma tu cos'eri, diciamo, una prima linea oppure un impiegato? Cos'eri per lui? No, sì, una prima linea. Una prima linea, quindi un rapporto, diciamo, di famosi cavalli di battaglia, quando si va in il famoso cavallo di battaglia, il quale... più o meno qual era il settore in cui lavoravi? Non voglio saperlo con esattezza, ma di cosa ti occupavi? No, stiamo parlando di parte tecnica, industria automobilistica. Perfetto, diciamo, avevate delle responsabilità entrambi. A un certo punto ti porta un documento? Sì, mi ha fatto firmare, c'era un problema, adesso non ha senso. No, è difficile, sì. Comunque tu hai detto firmati questo, e tu l'hai firmato senza nemmeno pensarci. Mi ha fatto firmare un documento, io ho guardato il documento e ho detto, ma che cosa mi fai firmare? Era una cosa molto strana. In quel momento però soltanto la fiducia nel mio capo mi ha fatto fare. Guarda, se a me mi porta in tonti un documento, lo firmo, manco ci penso, non mi pongo il problema, ci lavoro da tanti anni. Io dico questo, sempre da quel momento il mio capo, il mio riferimento dalla persona più importante da un punto di vista professionale è diventato una merda. Io non sono riuscito a rivederlo per dirglielo in faccia. Non l'hai più visto in faccia? No, non ho, però l'aspetto. Beh, io avevo avuto amici, conservo amici che sono comportati da vere merde con me, quindi, però io ho ringraziato veramente tutti gli dèi perché non l'ho mai più rivisto in faccia, perché per anni sognavo la maniera di come farli a pezzi, quindi era meglio che non li incontravo. No, ma io sai, io credo che ci siano, cioè io credo che la dignità abbia cioè, comunque questo è chiaro, è anche recente, quindi un anno fa, e ancora probabilmente ancora ne hai. Ma tu probabilmente tu adesso senti anche nella mia voce magari un po', cioè è già passato un anno, pensa cosa ho provato. No, figurati, lo so bene, lo so bene. Dopo un po' passa e non ci pensi più, stai tranquillo. Allora, io nel frattempo spero che mi è stato dato in questo momento un foglio da firmare in regia. Lascio tutto a Intonti e Chiappini. Firma, no, col cavolo. mi è servita questa legge. Sì, Fabrizio Intonti e il professor Chiappini mi hanno provato a dare un foglio in cui lasciavo poi tutto, che la fava che vi lascio. Vabbè. Aldino, grazie Aldino. Stefano, buongiorno. Salve. Sei pronto? Pronto. Ok, vai, 30 secondi. Io sento tutte queste cose strane, a me è successo in uno scantinato, avevo 12 anni, con la cugina di un mio amico più grande di me di 4-5 anni e fu lì, punto, basta, la cosa più bella che mi è mai successo. La scurrile saggezza popolare osa dire a volte, sfidando il liminare senso dell'incesto, non c'è cosa più divina che trombarsi la cugina. Tu l'hai fatto veramente? Anche se non era mia, era di un amico. Ah, cugina di un amico? A te non lei... era niente allora, scusa, era non una era ragazza. Niente, però era comunque... E come avvenne? Adesso non voglio entrare nei particolari. Questa perdita dell'innocenza è quella che veramente uno si ricorda volentieri. Era più grande di te, immagino. Certo, altrimenti... Ti portò nello scantinato? Stavamo, fu un caso, si capitò lì per caso e successe tutto. La cosa più bella che mi sia mai capitata. Ah certo, una botta di fortuna non da poco. Quanti anni avevi te? 12 anni. 12-13 anni. Beh, eri piccolino, lei quanto era grande? Quanti anni aveva lei? Ce n'aveva 17-18. Diciamo, era a rischio sì, anche violenza. Se prima anche se prima diciamo le ragazze non erano tanto mature come adesso, 17 anni sembrava. Fino a sbottolarti i pantaloncini, era, però c'è arrivata, diciamo. Sì, quello... tanto bambina non era, insomma. Vabbè, diciamo comunque ti ha dato una felice iniziazione, spero non ti abbia creato traumi, perché 12 anni sono un po' pochi, in effetti. 13, sì, forse 13. Comunque, una ragazza che si è approfittata di un bambino, diciamola così oggi, in altri tempi avremmo detto ah bello, che bello, beato te, oggi bisogna dire è un brutto gesto che una ragazza si approfitta di un bambino, se fosse stato l'opposto sarebbe stato ancora una cosa terribile, altrettanto terribile. Dimitri, buongiorno, sei pronto? Sì, sono pronto. Vai, 30 secondi. Ecco, la mia innocenza l'ho perso con una frase, do uf des, che mi disse un maresciallo che mi fermò in caserma quando facevo il militare, mi voleva sanzionare perché giravo in bicicletta e non era consentito a nessuno, ma mi fece andare quando scoprì che ero lo scritturale dello spaccio e a lui questa posizione gli conveniva perché di pomeriggio, quando lo spaccio era chiuso, veniva a prendersi una birra di nascosto. E insomma, in questo modo ho capito che posizione di privilegio avevo. Eri anche molto innocente, perché tutto sommato, sai, birrettina, il maresciallo con la birrettina. Credevo, non ero io che gliela davo direttamente, io facevo i conti, però sì, credevo in un'etica, cioè, rimasi malissimo quando dici, ma pensa a te. Vabbè, ma era uno scherzo, detta così sembra più una battuta, dai offrimi una birretta. Cioè... No, lui era, mi fermò severamente, quasi mi disse scendi dalla bicicletta, l'hai rubata, non è tua. E io Dout des, e poi si è presentato allo spaccio e dammi la birra. No, poi mi chiede il documento, quando vide che la mia mansione era scritturale dello spaccio, fa, vabbè, ma se lavori là me lo potevi dire. Lo so esattamente che significa, ho fatto il militare, so che le delizie dello spaccio, la cioccolata, le razioni, era una cosa fantastica, e le forme di formaggio che ogni tanto vedevo uscire non rotolando da sole. Cristina, chiudiamo con Cristina, veloce, c'è 30 secondi esatti, vai. Passano e avanzano, argomento l'amicizia. Io ho perso la mia innocenza intorno ai 23 anni, tardissimo. Avevo un gruppo di amiche che io credevo amiche, proprio amiche del cuore, quando a un certo punto il fidanzatino col quale mi frequentava quei tempi mi disse: ma ti rendi conto che queste qua non ti cercano mai, sei sempre tu che le cerchi, tu che le scarozzi, prova un po' a non farti sentire per qualche giorno, cioè sei sempre tu la prima, no, a cercare, poi loro aspettano. Vabbè, ho fatto la prova, non ci siamo sentiti al telefono un giorno, poi io ho detto, vabbè, ma che succede? Guarda, io ho fatto la stessa cosa con una madre, tre fratelli, sono 10 anni che non li sento più, quindi è abbastanza normale. Fatelo ogni tanto, ritualmente, non chiamate più le persone che vi stanno vicino, vedrete che molti non si faranno più vivi. Alla prossima.